alla schiena del sole ospita un bongo. Questo, dopo il reggaeton, abbiamo anche quest'altro primato. No, scherzo, perché appunto un po' di puntate fa parlavamo di reggaeton. Chi mi ascolta sa che io proprio mi veniva un po' l'orticaria, ma invece poi riusciamo così a rivoluzionare un po' tutto. E allora, io non riesco a entrare in contatto col Messico, cosa che continuerò a fare, insomma, un po' tra una chiacchiera e l'altra con gli Scasso, che io intanto invito a salutare. Fate sentire che ci siete, se no. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Allora, ricordatevi che vi dovete proprio fare un esavalente sputando dentro questi microfoni, perché i potenti mezzi di Onda Rossa vogliono così. Allora, intanto, bentornati, vedo una novità. C'è una novità. Allora, aspetta. No, saliti un po', c'è una novità. C'è una novità, eccoci qua. Buonasera. Niente, tu mi sa che non vai. Sì, c'è una novità, c'è una novità. C'è un ragazzo con i baffi che è da poco che è entrato a far parte della nostra famiglia. E allora, tu intanto vieni di qua, intanto io risolvo là. Siamo assai soddisfatti. Via, ma allora, bando alle ciance, vi lasciamo fare due chiacchiere con Marta e esatto. Domenico, allora, che novità sei tu? Che cosa porti? Ciao a tutti, sono Domenico e sono il nuovo sassofonista degli Scasso. E allora perché mi arrivi col bongo se sei un sassofonista? Che mi spiazzi così, mi metti paura. Con Giambè, volevo fare. Ma sto scherzando, cioè io scherzo, non mi guarda male. No, e quindi si aggiunge un sassofono da quanto questo? Da un mesetto, sì. Diciamo circa un mesetto. Non si sente, quello non si sente, sto a rosicà pure, perché poi invece dopo ci servirà. La facciamo un po' più casareccia, da poco che Domenico è venuto con noi in sala prove. Dobbiamo dire che già da subito è stato molto molto propositivo e grande. ci è piaciuto da subito. Siete voi che mi avete fatto prendere questa grande carica. Tra l'altro, da quello che mi dicevi, qualcuno un po' più girandolone di me ti potrebbe anche aver visto così in questa zona. E poi insomma il sassofono in un gruppo ska, insomma gli ottoni direi che hanno un loro peso, una loro importanza. Era ora. C'è una tromba, cioè voglio dire, insomma, dai dottoni. Allora, io quello che siamo qui per fare oggi fondamentalmente è che, dopo averli ospitati, qualcuno di voi se lo ricorderà, perché appunto grandi hanno partecipato in maniera assolutamente gratuita, perché io questo lo voglio dire, perché sono noti di merito, a un'iniziativa per Radio Onda Rossa, in sostegno di Radio Onda Rossa, e abbiamo parlato del bellissimo vostro disco che era insomma proprio caldo di forno, appena tra cielo e utopia. Bellissimo, non solo appunto la musica, ma anche a livello grafico, perché poi metteremo in mezzo il grafico. Bellissimo perché appunto, diciamo, è molto vario. Lo ska ha sicuramente una radice, qualcuno mi insegna qui, con sti capelli strani che c'hai, che viene un po' appunto il rocksteady, poi lo ska è un'evoluzione, quindi comunque sono, diciamo, musiche che si miscelano da paura. Sì, e poi abbiamo proprio fatto questa scelta, quella di comunque portare interazioni diverse, quelle che ci abbiamo, quello che ci appartiene, cerchiamo di portarlo dentro e di costruirci insieme qualcosa. Ok, e come avete scelto di fare proprio il video di questa canzone? Perché questa canzone è molto importante per noi, perché tanto chiamiamola Tra cielo e utopia. Da qui nasce un'esigenza, che è quella di raccontare, no? Di portare i fatti di Genova, di Genova 2001, che tanto è passata da questa radio, voi lo sapete, noi abbiamo dentro il cuore e il cervello, i compagni, i pezzi di cuore. Sì, insomma, l'altra volta poi noi non ci eravamo parlati per niente, indubbiamente mi ha sorpreso che ci fosse una canzone su Genova, perché appunto io, voi siete venuti qua, non ci eravamo mai visti, ci siamo messi a chiacchierare ed è uscita questa cosa e mi ha lasciato di stucco, mi sono sentita un po' la scema di turno, perché insomma chissà perché poi uno vede facce giovani e sarà un po' il rimorso della coscienza del fatto che noi invece, che un po' più grandi già quando eravamo a Genova, forse abbiamo un po' subito veramente la paura di quella repressione, di quelle botte, di quella violenza, di quella infamità, e quindi abbiamo avuto per tanti anni un po' una chiusura a parlare di Genova, a voler parlare forse da una parte di una sconfitta, dall'altra di una vittoria, dall'altra comunque di una questione che ci aveva un po' diviso, e quindi forse chissà ci aspettavamo di riunire. Insomma, non è stato, è stato sicuramente traumatica Genova anche per i compagni e le compagne, e quindi insomma a me mi ha accolto molto bene. E credo che comunque un po' il vostro disco alterna momenti, forse siete un po' così anche tra elementi, no? Alterna momenti di estrema serietà, come appunto la canzone su Genova, che appunto non è una canzoncina che dice a Genova ci hanno menato, secondo me trasmette la paura, corri amore corri, cioè trasmette proprio le sensazioni, insomma bisogna ascoltarla chiaramente al ritmo di ska, perché comunque era tutto un correre e cercare di respirare tra lacrimogene e l'altro. E poi nel disco però ci sono anche appunto brani più leggeri che celebrano le nostre bellezze, il vino piuttosto che appunto la godura, il modo di togliersi libertà, i pensieri, cioè. Esatto. Poi appunto un po' mi piacerebbe pure chiedervi come vi nascono i brani, chi li scrive, come fate, come insomma come nasce un disco degli Scasso, una canzone degli Scasso. Come nasce una canzone degli Scasso? Noi ci consideriamo un po' una fabbrica del suono. Che cosa significa? Che portiamo un'idea, portiamo un qualcosa, la nascita di qualcosa, e da lì ci mettiamo, costruiamo insieme, cuciamo, questo lo mettiamo, questo lo togliamo. Poi ci stanno, come dicevamo prima, le influenze di ognuno di noi, quindi di conseguenza la capacità di influenzare quel pezzo stesso, e quindi è un po' un taglia e cuci la fabbrica famiglia Scasso, insomma tutto in modo molto comunitario. Poi vabbè, sì, voi sì. Mi raccontate che avete anche una storia d'amicizia che conosciamo da più di 20 anni, e quindi siamo, è una famiglia nostra, siamo tutti fratelli, amici, stesse origini, stesse esatto. Condivisioni di luoghi, di paese, un po' a lotte, volte tanto figo, stesse, a volte duvalle, esatto. Quindi Namastonasse, no, stasera esatto, moriamo dei pizzichi, esatto. Che però intanto siete usciti fuori musici da paura, capito? Cioè ogni cosa ha il suo lato positivo. Che dite, la mandiamo? Dai, mandiamo. Anche perché mandiamo. Poi cioè, mi avete portato il bongo e la chitarrina, che fate, non suonate? Adesso vediamo lì che succede. Allora direi che mentre mandiamo appunto questo brano, che io vi chiedo di ascoltare con attenzione, perché appunto poi la velocità dello ska casomai fa prendere il ritmo, e pensare a quello invece qui io vi consiglio di ascoltare molto anche il testo. Tra cielo e utopia, dall'omonimo disco, il brano e il video, che potete trovare sul tubo, potete trovare anche su, insomma, potete trovare in rete nei più disparati modi. Tra cielo e utopia. La mia energia si espande nitida tra cielo ed utopia. Affondano le Allora, mentre finiscono gli scazzo, ci prendiamo un attimo una pausa. Loro non me ne vorranno, tanto stanno qui, poi continuiamo, perché invece siamo riusciti a prendere la linea con il Messico. Allora, non so se mi sentono dall'altra parte. Sì, un saluto a tutti e tutti. Siamo qua in ascolto. Ok, allora, ecco, ho smaltito un attimo perché non riuscivo a parlare con voi. E, insomma, è molto importante perché, come dicevo, oggi sono 6 mesi dalla sparizione volontaria da parte del narcostato messicano, direi, dei studenti della scuola normale rurale Isidro Burgos e Ayotzinapa. Più o meno ogni 26 abbiamo cercato di ricordare che c'era questa chiamata da parte dei genitori e dei compagni a una mobilitazione globale. Allora io ti chiedo intanto un po' di parlarci delle mobilitazioni che ci saranno, perché insomma per una questione di ore immagino che è tutto un po' in divenire. Per questo 26, come stanno andando avanti le cose? Perché qui poi l'informazione su questo, quella vabbè, diciamo istituzionale mainstream, inutile dire che è sparita già qualche giorno dopo, e invece appunto noi abbiamo un po' una difficoltà a tenere alta l'attenzione, proprio perché o le notizie ce le date voi oppure insomma non è proprio semplice. Quindi davanti a un presidente messicano che chiede un colpo di spugna quasi, no? Comunque di lasciarsi alle spalle questa vicenda, perché la storia del Messico possa continuare florida come solo lui sa vedere, vorrei sapere insomma, raccontaci un po' che succede per questo 26 e cosa si muove anche intorno, visto che raccontavo che ci sarà presto una carovana, diciamo una gira europea, come si dice in Messico, quindi raccontaci. Ecco, sì, in effetti innanzitutto approfittiamo anche per ringraziare Radio Onda Rossa per la possibilità di poter raccontare le lotte che si stanno sviluppando in Messico, perché appunto è cominciato in qualche modo il muro di gomma dei media ufficiali intorno alla vicenda, superato l'inizio appunto drammatico e spettacolare che per i media ufficiali da raccontare, quello che segue che appunto è l'organizzazione dal basso sia della ricerca dei 42 ragazzi ufficialmente dichiarati scomparsi, cioè sequestrati dalla polizia di Iguala, e oltre ai 4 morti studenti ammazzati quello stesso 26 settembre per ancora cui si chiede giustizia. Allora, ricordiamo appunto, siamo a 6 mesi, ogni 26 del mese si portano avanti azioni e mobilitazioni in tutto il paese, anche a livello globale nella misura in cui è possibile, e qua oggi in questo momento diciamo c'è una delegazione c'è un concentramento, un sit-in dei familiari degli scomparsi e degli assenti di Ayotzinapa presso l'Istituto Nazionale Elettorale nel DF, in cui si sta durante il quale i familiari appunto e le organizzazioni sociali accompagnanti daranno un documento all'Istituto Nazionale Elettorale per spiegare perché in questo paese, in questo momento, non è possibile citare le elezioni che sono previste a luglio. Sono elezioni per i governatori e deputati federali. E una delle strategie infatti di lotta scelte dall'Assemblea, dalla Convenzione Nazionale Popolare, ma soprattutto dall'Assemblea delle organizzazioni più vicine ai familiari dei scomparsi, è quella del boicottaggio delle elezioni, perché visto che è stato comprovato, anche se già da tempo, però con questa vicenda, la perfetta connivenza che c'è fra appunto il narco e lo Stato e l'incapacità delle istituzioni di mantenere un paese dentro le minime regole democratiche, il movimento ha deciso, ha invitato espressamente a boicottare le elezioni. Ovviamente questo sta generando molto fastidio nel palazzo, però si procede verso questo boicottaggio. Si sta anche vedendo se si riesce ad avere la forza di impedire l'installazione delle urne elettorali, soprattutto a Guerrero, però bueno, queste sono cose che vedremo nei prossimi mesi e comunque che è importante segnalare, su cui il movimento sta lavorando. Il boicottaggio delle elezioni ovviamente per la parte del movimento autonoma, tiro zapatista, rappresenta comunque una interessante svolta, perché in questo grande movimento che esige la riapparizione con vita dei 43 studenti e che esige giustizia per gli assassinati il 26 di settembre, e ovviamente si sono infiltrati non gli anarchici spaccavetrine, come piace dire alla stampa del regime. I veri infiltrati sono in effetti alcune organizzazioni filopartidiste vicine alla sinistra istituzionale, che cercano di deviare il movimento non sulla richiesta di giustizia e la ricostruzione dal basso del Messico, quanto su una proposta elettorale che poi sarebbe quella di Andrés Manuel López Obrador, lo storico candidato di sinistra che perde in tutte le elezioni dal 2006 in poi. E quindi per noi l'invito al boicottaggio alle elezioni ci sembra una svolta decisiva e importante che ha avuto questo movimento popolare, che radica soprattutto in Guerrero, cioè no? Si appunta soprattutto là, ma che comunque ha delle ricadute importanti in tutto il resto del paese. Del resto anche qua in Chiapas in questo momento c'è una manifestazione soprattutto di insegnanti a Tuzla statale, e nel pomeriggio è previsto un altro corteo a San Cristobal, dove stiamo trasmettendo. In tutto il Messico comunque, soprattutto non in tutto, però in buone parti del Messico ci sono mobilitazioni ogni 26. Quindi ricordiamo pure che a parte questa consegna di un documento che per spiegare formalmente quasi una dichiarazione di guerra contro le elezioni che si farà oggi, dopo seguirà a Città del Messico una grande manifestazione nazionale. In questi mesi, in questo mese, inoltre vale la pena segnalare che si è fatta un'azione nella zona delle ambasciate di Città del Messico, dove i familiari hanno bussato appunto alle porte di 26 ambasciate affinché appunto le diplomazie di questi paesi possano pressionare lo Stato messicano. Siamo in una fase di internazionalizzazione, come dicono i compagni e le compagne di Ayotzinapa, della lotta. E in queste settimane stanno prendendo piede tre carovane. Una carovana, diciamo, interna, nella frontiera interna del Messico, dei familiari di Ayotzinapa presso le comunità del Congresso Nazionale Indigena, del Congresso Nazionale Indigeno, che sono le comunità, diciamo, indigene organizzate nel movimento zapatista, e quindi, diciamo, una delegazione dei genitori e dei familiari di Ayotzinapa sta visitando popolo per popolo, comunità per comunità, gli indigeni organizzati dentro il movimento della sesta dichiarazione del ZLN. Un'altra carovana invece punta agli Stati Uniti, e questa ovviamente dà molto fastidio al potere, ed è una carovana che è organizzata soprattutto dai gruppi di migranti messicani nell'altro lato del Rio Bravo. Aspettiamo, ovviamente stiamo ancora vedendo i risultati, è appena cominciato e siamo in fase di elaborazione e di costruzione anche di una carovana in Europa, come già annunciato su Radio Onda Rossa, che dovrà avvenire fra aprile e marzo, con ovviamente una tappa anche a Roma, in Italia, con Milano e Roma. Ovviamente ci saranno più dettagli sulla presenza della delegazione dei genitori di Ayotzinapa e ovviamente sulle mobilitazioni che accompagneranno questa presenza, perché se è vero che è una lotta esemplare, è molto interessante anche da raccontare per il processo di aggregazione e di costruzione della resistenza che ha avuto, i compagni e le compagne di Ayotzinapa vengono a portare avanti mobilitazioni che possano pressionare e incidere veramente sul lavoro di investigazione e di giustizia che dovrebbe fare lo Stato messicano, anche se sanno perfettamente che da questo Stato, da questo Presidente, da queste strutture di potere, e no anche con un altro Presidente, sarebbe comunque impossibile ricevere giustizia. Quindi diciamo, ribadiamo l'interessante di questo movimento, che da un lato punta il dito direttamente sullo Stato, perché lo Stato è responsabile della sparizione dei 43 studenti e dell'assassinato degli altri studenti del 26 settembre, oltre che di molte altre disapparizioni. Ricordiamo che in Messico la Fiscalia, cioè la Procura della Repubblica, segnala 23.000 persone non localizzate che sono state denunciate. In realtà sono le persone che hanno fatto portare una denuncia per desaparizione forzata, cioè per sparizione che in Messico non è tipificato come delitto, come reato. Quindi risultano solo persone non legalizzate, sono 23.000 persone, quindi noi diciamo sempre sono 23.000 più 43. La lotta, esatto, quindi per la riapparizione, sì, è la, cioè, più 43 è più, diciamo, tutti quelli che non sono stati denunciati per paura, più tutte quelle che chissà, no? Quindi bisogna aggiungere, certo, poi i numeri. Certo, anche perché la stessa la vicenda dei 43, ricordiamo, ha portato alla scoperta di fosse clandestine in ogni lato, cioè la zona attorno a Colula e la zona insomma attorno dove c'è la scuola di Ayotzinapa e dove sono avvenuti questi tragici fatti, in realtà sono venute fuori fosse clandestine con decine e decine di corpi interrati, siano o non siano degli studenti. Lo Stato ovviamente dice che sono loro, per chiudere la vicenda appunto con un colpo di spugna e dire purtroppo ci sono i cattivi, è finita, sono morti, andiamo avanti, il paese ha bisogno di guardare al futuro. ma ovviamente i genitori vogliono, esigono, e noi con loro come movimento, prove scientifiche che attestino che questi studenti siano stati ammazzati lì e non sono in qualche altro posto. In ogni caso, ricordo che queste fosse clandestine fanno pubblico che in Messico è una grande fossa comune, che un meccanismo di potere e di dominazione è proprio quello: far sparire la gente, far sparire la dissidenza, lasciare nel silenzio e nel terrore. Una pratica che abbiamo conosciuto in altri posti, che in Messico forse nei tempi di oggi, con un conflitto di classe non tanto politicizzato come anni fa, viene fatto passare per narcoterrorismo, come se questo fosse una piaga sociale, non una derivazione diretta del capitalismo, delle pratiche di governo che difendono il capitalismo. Comunque c'è da aggiungere ancora che si è creato un gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti promosso dalla Commissione Interamericana dei Diritti Umani, i quali stanno pressionando, diciamo, dal punto di vista istituzionale del governo messicano, e che i familiari quindi usano come pretesto, appunto, dentro delle istituzioni per spingere il governo a fare il proprio lavoro. Quello che dicevo appunto è questo: un movimento che da un lato punta il dito sul governo e lo obbliga a dire la verità, a mostrare attraverso il proprio lavoro nelle istituzioni dove sono questi studenti scomparsi, come si fa giustizia in questo caso. Ma dall'altro lato, diciamo, anche la parte più interessante di questo movimento è che non crede in questo governo, ma non crede in generale nell'istituzione statale con i suoi apparati, perché sono quelle che perpetuano l'ingiustizia e che l'hanno generata. Questa chiarezza è quella che in realtà ha avvicinato questo movimento anche al movimento zapatista e ad altri movimenti rivoluzionari in Messico, perché è una chiarezza che non tutte le vittime della violenza statale hanno. Quindi, diciamo, si è creata anche questa affinità nella lettura della violenza di Stato, che è una violenza che lo Stato deve pagare, su cui deve fare giustizia in quanto ente che esiste al di sopra di noi, però anche la necessità di costruire un'alternativa dal basso che smonti lo Stato, perché lo Stato è il perpetuatore, appunto, della violenza nel seno della società capitalista. Ora, c'è da aggiungere che forse è rimasto un po' indietro che c'è anche un compagno ancora, Aldo Gutierrez, un normalista che è ancora in coma, è uno dei 5 ragazzi che ha ricevuto una pallottola in testa la notte del 26 settembre. Ci siamo ricordati anche di questo fatto perché ovviamente nel suo caso stanno mancando le medicine necessarie e l'attenzione medica necessaria, quindi ricordiamo anche che oltre ai 43 scomparsi, oltre ai 3 studenti assassinati, oltre a 3 passeggeri che passavano sui pullman quella sera nel posto sbagliato, che tutti morti, quindi 6 morti, 43 desaparecidos e un ragazzo in coma ancora. Aldo Gutierrez, va a lui il nostro pensiero e il nostro pugno chiuso. E noi chiaramente sommiamo il nostro al tuo, chiaramente, continuando veramente con forza a voler parlare di questo, perché ti ripeto, qui il silenzio è veramente troppo intorno a questa storia, laddove invece, appunto, per fortuna c'è degli universitari che si sentono toccati da una storia così, nonostante delle differenze diametralmente, direi profondamente, agli antipodi, ma sentono loro questa storia, così come, appunto, ricordiamo che la desaparizione degli studenti degli Ayotzinapa è stata poi una miccia che ha acceso tante cose in Messico, no? Non solo, diciamo, un percorso politico, probabilmente un solco aperto rispetto, appunto, al pensiero politico, ma che ha veramente attraversato e riacceso la miccia in tutti un po' i settori lavorativi che hanno sostenuto la lotta per la verità. Lo ricordiamo spesso. Io credo che la cosa che, appunto, che possiamo fare da qui è, aspettando appunto l'accoglienza di questa carovana europea, è quello di continuare a parlarne. Quindi voi che state lì sapete quanto siete fondamentali per noi, per fare un po', appunto, da megafono in tutto quello che si muove, appunto, non solo nella storia, diciamo, nella cronaca degli eventi, ma anche in quelli che sono poi le relazioni che si intessono con questa, no? Quindi abbiamo parlato di come la Sesta Campagna ha voluto appoggiare, di come gli zapatisti stessi sono voluti silenziosamente scendere in piazza a condividere questo dolore. Insomma, la miccia ha funzionato, no? È partita e ha svegliato tante cose, e credo che noi, appunto, possiamo svegliare continuando a parlarne, non solo ogni 26, ma insomma tutte le volte che ce n'è bisogno. Quindi, che dire, ti mando un abbraccio forte. Infatti, ok, sì, in effetti io solo volevo aggiungere che in effetti riguardo a questo, la connessione con altre lotte, sono usciti ultimamente dei comunicati della Comandanza General delle ZLN, ricordando che appunto il 2 maggio è un anno dall'omicidio del compagno Galeano nella comunità della Realità, e in occasione dell'anniversario appunto dell'omicidio ci sarà una celebrazione e una mobilitazione il 2 maggio qua vicino Oventic, e a questa mobilitazione sono stati invitati e parteciperanno anche i familiari degli studenti degli Ozinapa. Questo per ricordare la connessione d'Otti, i separatisti, oltre a scendere in piazza, hanno ricordato in ogni loro comunicato e in ogni loro azione la vicinanza e la complicità con il movimento degli Ozinapa. Quindi staremo a vedere che succede anche in questi mesi. Il 2 maggio quindi ci sarà un grande evento nel Caracol di Oventic con la partecipazione dei genitori degli Ozinapa, degli studenti, e seguirà dal 3 al 9 maggio un seminario internazionale chiamato Il pensiero critico contro l'idra capitalista, in cui parteciperanno anche Emmanuel Wallerstein, John Holloway, Raul Zibeci, insomma alcune dei nomi conosciuti del movimento intellettuale anticapitalista, però parteciperanno soprattutto anche i genitori di Ozinapa, i familiari compa Galeano e tutte le vittime della violenza di Stato, che però non si considerano vittime ma guerrieri in prima linea per la trasformazione di questo paese e del mondo. Quindi anche noi mandiamo un altro abbraccio da qua, rimaniamo in contatto e sentiamo che è indispensabile il lavoro sia di controinformazione fatto da Radio Onda Rossa e dalla qualsiasi possibilità di mobilitazione, di riflessione su appunto la guerra globale che si vive, che in Messico ha un aspetto ma in Italia ne ha un altro, perché di fondo c'è anche la privatizzazione dell'educazione. Tutta questa storia nasce dall'opposizione degli studenti di Ayotzinapa alla privatizzazione dell'educazione, e quindi di riflettere insieme a Roma come in ogni altro posto sulla capacità di costruire una resistenza a livello globale a questa minaccia a sua volta globale. Quindi un altro abbraccio e grazie di tutto a tutto. Grazie a voi, salutami quel traumatone lì. L'amico tuo, io. Insomma, così siete due voci, vi becchiamo comunque. Dai, un abbraccio forte. Dai, un abbraccio e allora forte. A presto. Ciao. E allora, insomma, noi continuiamo, riprendiamo al volo il filo, così anche per alleggerire un po', che qui tra Genova e il Messico, allegria. Comunque, il 18.02 degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ci andiamo a sentire Rotola degli Scasso. Rotolano in fondo all'anima le mie parole, scivolano come gocce fredde di sudore. Ora parlo al vento, ascolto in silenzio e stringo con la rabbia tra le dita la mia terra. Tempo penso di non essere me stesso, vago in un mondo fatto solo di possesso, dove conta ciò che hai, non conta ciò che sei, e brucia la speranza mentre infiamma l'ignoranza, e resto prigioniero di me stesso. Mi chiudo, faccio ammenda e sbircio tra la folla, mi chiedo cosa cerchi in un mondo sotto sopra. Rotoliamo tutti intorno al mondo, tondo di piombo, ferro e cemento. Rotola tutto prima di sera, qua rotola tutto, bel tempo si spera. Ah, ma per fortuna che c'è il vino, che accantona le paure, me lo diceva sempre mio nonno Serafino. Grazie a queste vibrations voglio la mia identità, mi libero di questa nostra cupa città. E guardo fisso il mondo, sicuro di affrontarlo con la logica. Rotola la lirica, scivola la metrica. Non mi limito ma lotto più che posso, fino allo stremo, sì fino all'osso. Ma per fortuna che c'è il vino, Allora, qui ci perdiamo in chiacchiere, perché poi appunto siamo tra amici, per fortuna che c'è il vino, qui si chiacchiera, bellino, si fa salotto. Invece appunto io volevo chiedervi intanto chi è il magico regista di questo video. Allora, il magico regista, e lo ringraziamo, per è forza, super mega bombard Luca Catino. Dai, regia, montaggio, supporto, il nostro guru digitale insieme a Marco Proietti, che ringraziamo, fratelli, grazie. Ecco, diciamo che esce il disco, esce il video, e uno gli prudono le mani, cioè già non vi vedo proprio gente calma, ora. Ecco. Però poi la voglia di suonare, a chi è musico, ci mette la passione, ci mette i testi, ci mette gli prudono le mani, quindi voi volete suonare. Esatto, e qui lanciamo il Traccello Utopia Tour 2015, che speriamo ci porti dovunque. Esatto, cioè non è che stanno dicendo sapete raga, non già siamo il tour Traccello Utopia, stanno dicendo aiutateci a metterlo insieme. Costruiamolo insieme, il no? Traccello Utopia Tour, insomma, costruiamolo insieme, quindi prendete, chiamate questi, cioè se volete chiamate pure qua e io vedo a tutti nome, cognome, indirizzo. No, scherzo, però insomma appunto, loro stanno mettendo insieme questo tour, quindi li potete contattare intanto sulla rete, un attimo trovarli, ma insomma se volete poi tra due minuti quando abbiamo finito chiamate, potete parlare con loro e insomma aiutiamoli a mettere insieme questo tour, sì, dalla Val d'Aosta a Gela, ovunque, no? Ovunque tour, come dire, ovunque tour tra cielo e utopia, che insomma mi sembra anche il titolo del tour, no, il primo tour degli scatti, primo tour, ok, sì. Che dobbiamo fare qui? Suoniamo? Che vogliamo, che aggiungere? Vogliamo, a meno che non vogliate fare aggiungere qualcosa insomma rispetto al disco, un pochino abbiamo parlato l'altra volta. Diciamo, ricordiamo che il 25 siete in un noto locale di San Lorenzo, che quindi potete trovare la data, anche questa in rete, perché noi lo sapete non facciamo pubblicità ai locali, ma io so che probabilmente farete una data anche in un centro sociale qui vicino, visto che i telefoni suonano, non anticipiamo niente, comunque appunto queste date le potete trovare facilmente e bisogna aggiungerne altre, comunque il 25 sono qui a San Lorenzo e suoniamo? Suoniamo. Che dite? Ci organizziamo per suonare? Suoniamo. Allora, tu dici che, dai, ne posso mettere un'altra mentre acchittiamo qua, quale mi consigli? Mettiamo questa, sì, no, vai. Sì. Ok, allora una cover, perché appunto poi di cover ne hanno fatte, perché cover si comincia piano piano, esatto, e non è che hanno scelto proprio delle cover così, dici sai fammi fare una cover, una cosa semplice che all'inizio, no, loro hanno fatto le cover tipo di Ghost Town, ah, no, questa un è partita inno, da sola adesso, inno, eccola, cioè di un pezzetto qualsiasi proprio, una cosetta, eh? E sentite come, dopodiché tagliamo questi secondi di vuoto prima del vostro scherzo. 18 minuti ancora gli scasso. We'll be right back. Ad un mondo migliore, ho bisogno sì di credere che possa cambiare, ho bisogno di porco dentro al mio cuore, non ho bisogno di nessuno che mi dica cosa fare. E questa vita e questa terra appartengono anche a me, non mi serve più nessuno che gestisca per me. Questa vita e questa terra appartengono anche a te, non ti serve più nessuno che gestisca per te. Notti e notti e di visiti carne fino a Babila. Notti e notti e di visiti carne fino a Babila. Rispetta chi hai vicino, cederà la rabbia, migliora ciò che hai, sì, tu essendo ciò che fai. Rispetta chi hai vicino, non cederà la rabbia, migliora ciò che hai, sì, tu essendo ciò che fai. Yeah, this is the original fire. Scasso sound system. Ed ho bisogno di pensare ad un mondo migliore, ho bisogno sì di credere che possa cambiare, ho bisogno di sentire il fuoco dentro al mio cuore, non ho bisogno di nessuno che mi dica cosa fare. Yamandi se stai riuscendo in Boomfire! Scasso family! Non ho bisogno di nessuno che mi dica cosa fare. Yamandi! Good vibes, good vibes. Scasso family. Improvvisiamo pure i live. Non so come abbiamo fatto. Io insomma sotto al tavolo. Qui ci siamo dovuti un po' incastrare. Poi uno ci prende gusto. No, hanno sentito, però io di là sono andata a sentire. Si sentiva, che già insomma direi che. Però ecco, credo che poi una volta che c'eravamo con pochi mezzi, uno si rende anche conto di, insomma, se con pochi mezzi fanno questo, no? Con tanti mezzi che combinano, Allora, io riprendo il timone mentre piano piano così ci divincoliamo tra strumenti, cavi, cuffie, jack contro jack. Abbiamo fatto le 18:16 minuti, intanto vi dico che Profondo Rosa oggi non ci sarà, quindi ecco, noi ci siamo allargati un po' anche per questo, cosa che non faccio mai proprio, ma proprio mai. Che dirvi dunque? Intanto io vi faccio in bocca al lupo che spacca. Crepi il poro lupo. Sì, poro lupo, però io ho scoperto che si dice in bocca al lupo perché la mamma lupa porta i piccoli di lupo in bocca da paura. Capito? Quindi è una cosa bella. È giusto. Capito? In bocca al lupo, io uno deve dire da paura, grazie. Da paura. Crepi, crepi, a sto punto crepi pure. Io sono madre, non si tocca né madre. Infatti. Quindi in bocca alla lupa, mettiamola così, e chissà ci rientri anche un'iniziativa per Onda Rossa in questo tour. Che dite? Scommetto che vi farebbe piacere. Vabbè, adesso organizziamo tutto. aggiungere qualcos'altro, dai, la chiusura finale di questa Eschina Scasso numero 2. Salutiamo tutti, ringraziamo Marta, Radio Onda Rossa, no, tutta la famiglia. È un piacere, è un piacere. Per noi è sempre un piacere. E tutti quanti quelli che giorno dopo giorno ci motivano ad andare avanti, perché sono tutti quanti quelli che ruotano intorno agli Scasso, apposta la Scasso Family. La Scasso Family che io ho visto poi appunto al concerto alla SNIA, ho visto veramente fomentate, è fighissimo, perché immagino che da lì vi arrivano un sacco di vibrazioni positive. Tutta quanta la gente che ci segue ci trasmette tanto e ci dà tanto, quindi grazie a tutti quanti. Quindi io ti assicuro che la comitiva si allargherà, si allargherà. Allora io con questo carinissimo saluto direi che andiamo a chiudere, anche perché io tra breve la telefonata che abbiamo fatto in Messico la troverete sul sito, cioè da qui diciamo a domattina, ecco. E, che dirvi, andiamo a chiudere qui per questo giovedì. Io vi ricordo l'appuntamento, visto che appunto Profondo Rosa non ci sarà, con Allegro con Fuoco verso le 8:15, e poi insomma proseguiranno le trasmissioni della notte fino ad Apostasia, a chiudere la notte del giovedì e a fare proprio il passaggio tra giovedì e venerdì. E domani mattina si riprende con i consueti appuntamenti di Radio Onda Rossa. E allora intanto facciamo partire la sigla. I potenti mezzi di Onda Rossa e le potenti menti. Abbiamo parlato di Messico, di Genova, di Ska, oggi niente.